Sta rientrando, sai? No, sto già rientrando, sono avanti da fare di l'apparecchio che me l'ha portato. Ah, provando lo sai? No, la capito, vabbè, dopo magari provalo, attaccalo, lo vediamo. Ok, l'importante è che funzioni bene. Ah, non è per l'apparecchio allora? Guarda, il microfono dice che solo prima che non lo sopporta questo tipo di apparecchio, tipo l'apparecchio che non sopporta il microfono. E ok, scusa Gianni, a te. Guarda Gio Maria. Attento, Gio Maria. Attenzione, Salvino, questo no, come faccio? Ciao, mi ascolti? Sì, cambio. Sì, mi ascolto, cambio faccio. Sono qui in barra mobile, località il monte, mi senti? Sì. Molto chiaro. Aiuto, sono una trombosa, aiuto. Ciao a tutti, cosa ti permette? Cicle, sente male. Oh, di nuovo. Atroce, mamma mia. Ho fatto una fettina, sta cucchiando la pasta, poi pasta e via, una fettina, un arancio e a nanna. Ai ai ai, ai ai. Già va bene così, dicono l'alghero. Sta passando il carretto a me. questi, questi, questi, poi spesso tutto, guarda, infatti le cose bisogna sempre farle molto, ma molto più esagerando per la tenuta, perché fare le cose bestiali. Vabbè, tanto quella non si rompe, una volta che finì il palo, sostegno, la rifracchi e va via il filo, meno male. E funziona egregiamente, veramente bella. Come ci ha fatto questa calamita? C'è la calamita, parecchio, se fa vicchia. No, no, già, no, quando me l'hai dato almeno non ce n'era, perché io quando me l'hai dato era la busta, non c'era niente. Cappa, comunque va bene, già andare, si sente che va bene. Vabbè, usalo, tienilo e fai quello che devi fare, usalo comunque, adesso non è che lo stacchi e poi usi l'altro, usalo. Adesso lo uso, voglio vedere come va, ti lo lascio acceso adesso, così almeno so come va. Sì, vabbè, lascio acceso, poi quando entra qualcuno parla e usa tutta la notte, se fin quando parli usalo, perché gli apparecchi si provano così, non è che si provano accesi e boom. Vabbè, ma adesso io lo voglio fare scaldare un pochettino, capito? Lo lascio acceso e vediamo un po'. Vabbè, anzi, adesso vado a mandigare, che ci sentiamo dopo. Sì, a ciao, già dopo, dai, che anch'io mi mangio qualcosa. Cappa. Perché se me ne danno. Però che frutta, là, si muove, come tiro il microfono, si muove tutto l'apparecchio qua, un affare, boh. Prova a attaccare le 5 minuti col microfono. Attaccalo già, dai, prova un attimo, attaccalo, cosa vuoi che dica, boh? A tu? Oh, come va? Va bene. Ma è termodulazione, c'è qualche cosa del genere? Ola. Ma io ti sento benissimo. Cosa dici? Continua a usarlo o no? Sì, lasciacelo, dai, non penso che gli faccia niente. Non si sente niente, né saturazione, né distorsione. Lasciacelo già, cosa vuoi che ti dica? È un rischio sempre. Sì, non ti credo, no, già, ripeto, io ho precisato quello da quello che ho visto, però, ripeto, non ti posso dire per sicuro, non sono una scientifica, no, io. Al limite, se senti che qualcuno ti dice che sei iniziato a trappare o a fare, già, staccalo subito. Trappa. Com'è, c'è pulizia di modulazione, oppure ha qualche problema, boh, troppo forte, troppo strano, boh. Guarda, io ti sento benissimo già, poi non lo so, ti sento bene, né forte, né niente, non male, bello appiccicato, chiaro, pulito, poi non lo so, adesso non c'è nessuno, come al solito, non si vede alcuno, non c'è mai nessuno. Non mi hai fatto sentire niente, vabbè la pupa. Eva, ciao Piccolo, ciao Luca, davanti è Luca. Davanti è Luca, cavalava. Ai ai ai, ma che devo dire? Allora Mario, adesso si attacca a questo coso. C'era Gianni, che stava provando da parecchio, però non c'era nessuno poco fa, adesso che ci siete voi ha fatto bianco lui al telefono. In questi giorni invece questo sbalzo di temperatura, l'altro giorno c'era molto freddo, sera, ieri c'era più caldo, oggi sta di nuovo le sale a scendere. A me quello che mi fate sono questi sbalzi così, me. Luca, ho battezzato 1 a 18, poi vai avanti e ti compare fino a 25, poi vai ancora avanti fino a 30, poi quando non ce ne sono più non te ne compare più niente. Ah, ecco, capito. Ebbene, ormai non ti possono fare una stringa lunga da 1 a 200, no? Se no ci vorrebbe tutto il monitor, non ti lascia. Ma mi sentite, sì o no? Ho si butto tutto. Sì, Pasquale, che ci sentiamo, vai avanti. Ah, ecco, perché ho fatto un break e non mi ha sentito nessuno. Beh, se tu fai il break quando stiamo parlando noi, cosa vuoi che ti senta? Oh. Ecco, già visto, la modularci e faccio pure il break. Ah, sono farà bravo ancora, mica la farò la cazzo al microfono. Venite a fare, non iniziare, non iniziare perché guarda, ci porta il 4-4 a Falcone, con l'alimentatore, da bombata 5 a bene, gli do anche il gruppo di continuità. Cosa che si può essere comprare l'alimentatore? Ti dico, come c'è il Natalino, parlo di sopra. Ah, che bello. Dove te lo devo riprendere, pronto. persona, se domani sale, perché devo dare baracchino. Capo di quella persona tu. È una cosa per te. C'è cosa per me? Papà. Ma cos'è quella sera dell'altra volta? Cazzo, l'ho dimenticato, ma adesso lo dillo. Cos'è tu? Un paio d'ore prima, pipì, pipì, pipì. Ah, no, ce l'ho chiamato un giorno prima, la rinnovo, anziché farla scadere, e mi regalano mezzo giga di navigazione gratuita. Sì, dal 31 dicembre ho 60 euro io, capito? Praticamente come ha attivato la schiena mi hanno regalato 20 punti. Sicuramente quella che questa qua Roberto piace, ma è manca, quindi c'è meglio che prenda fra un po'. Scappa Roberto, non ha questi greca allora. Come Roach. Andiamo bene. Ma tu? No. Dimmi. Mi sono dimenticato anche l'apertura del portone. Vabbè, quello non va. Capo. Io non sapevo neanche che era ricominciare. Ma credimi, no, da che parte si inizia? È una stronzata. Ti bari. Non è una stronzata come dici tu, assolutamente. Secondo me, secondo te sarà una stronzata. Ma guarda, ci sono stati già i capi passati, ci avrei messo 20 minuti a collegarlo. Tu. Oh, magari sarà facile, no? Anche oh, e beh? Ma non è ecco. Lo vediamo. Ci fai un presentino. Roger. In un momento non abita Mr. Farelli, è lì da questo. Ma è lui, mira che quello si paga, Anche quello si paga, E cosa? Preventivo. Beh, a me non mi interessa, io glielo faccio vedere poi. Cappa. Ma per avvisarti che devi avvisare a chi devi avvisare. Io glielo dico, ecco ma glielo dico. Cava cava. Ciao Maria Luisa. Ciao Gianni. Vabbè, secondo me la bambina bene. Sì, si è ripresa. Si sta bene, si sta a posto. Sapete quando sono andata mi ha preso a voce? Sì. La pediatra. Perché sono andata nella giornata che lei aveva gli appuntamenti. Come mi ha preso lei a voce a me, io ho preso a lei, le trascorse, la bambina è malata, anzi adesso è guarita, e me la deve visitare perché deve rientrare a scuola, dice me la portava stasera, io stasera sto facendo cosa, ho degli appuntamenti come ce li ha lì. Segua, il giorno, per carità, proprio come la magno, mi ha fatto rimanere male la faccia tutti fuori. Lei non doveva venire, perché doveva venire quando c'era appuntamento. Cosa vuol dire? Che la bambina non ti ha avvisato quando siamo là? No, infatti non mi ha avvisato, no. Anzi, lei si chiama, mi è venuto a buio, cosa vuoi? L'ho portata, è tutto. Quindi, qua, ma vado e me la cambio. È lui, cioè, quando fanno così, meglio niente. Ok, dai. A scuola è andata? Sì, si è andata, oggi è rientrata a scuola. Cava cava. Grazie, ma per me. Figlia, sono qui, sto battendo con la bambina. Tutto a posto? Sì, va bene, è controllato, assorbimenti, tutto. Tieni tutto sotto olio, Sì, ma secondo me è quello, te l'ho detto. Come al solito, come era prima. E vabbè, comunque, controlla che non salga, che non si illumini troppo il display, che è lo smith. Controlla tutto, se vedi qualcosa di anomalo, blocca tutto prima che faccia troppo danno. Mi sto facendo mettere, allora, al 16 ore. Lui dice fino a 15, quindi, da 12 a 15. Ho fatto di 2:18 come tensione. E tu manda a 18. E tu metti lo sciopero io. Vedo. Poi lo metti in track. Chi è che sta mangiando la mia presenza? Ma che sei tu? Io sono tuo figlio, caro. Io Piffo non ha chiamato. non so se io la mattina mi faccio proprio schifo. No, sì, vabbè, sicuramente è roba di frigorifero quello lì, non è alternata. Cioè il macchino sul frigorifero lui. Allora il frigorifero. No, mi pare che c'è abito troppo con il caldo. Ma no, già che è alternata va. No, io no, è tu no però. No, ho sentito un rumore sotto, però non deve essere roba di alimentazione. Poi perché va questa bottiglia di birra? Così. No. Ma la prima qua, Luca. Lo so, poi, scusa Luca. Ecco. Gappa, avanti, Breckere. Fa tutto Roberto Quadrazzo. Grazie, stiamo cercando Franco California, me. Ecco, chi tu? Senti la forza della bottiglia. Allora lui fare l'altro e viceversa. Ti ha ordinato la pizza, roba. Ma è stata? Una pizza, poi sparisce Marco. Franco stava cercando Roberto, avanti, Roberto è sparito Franco. Stavo parlando con due comunque. Hai pazienza. Ma nel mondo non conviene già, non conviene nel mondo. bene, non lo, no, ti conviene rimanere in Italia, qua. Ma come, non ti andare su lungo, io rimango in Italia. No, ma dico, tutti no, che sta cosa? Sto già comprando tutto. Ma io la fai ci sarò in America. Antonio. Oh. Mi sono tolto dal microfono, ma fa un culo, beh. Come hai tu del Milan? Del Milan? Non so come comunica il microfono. Antenna. Ah, è morto, non si ha. Ecco, vero. casa sua, arriviamo forti dappertutto, possiamo mettere anche la portante, tanto se la prenderò con lui. Ci sentiamo, dai, salutami. sinistra. Ciao Matto, ma te lo scrivendo stai? Sì, me ne vado a letto, non a giugata. No, mi tocca stare qui in piedi, cosa come un salame, no, me ne vado a letto se la biglia in culo, ciao. Qua ti regalo un portaapparato con la sospensione, con l'interruttore e tu lo abbassi. Sì, grazie, tra poco quando mi trasferisco ne avrò di spazio. E dopo la lo spazio non ha proprio l'antenna. C'è la biglia. Non è detto, perché ho trovato gente che con Facebook ha 02005 65 24 20 32 576. Tu sei il mio più vecchio, mi ero bucato. Hai detto che lo voglio, no, la bella. E me lo segno. Dove si è fatto 13, Claudio? No, già secondo. internet per lui è una tragedia. È un pericolo pubblico. Oh, per tutti, non solo per lui. Anche a me, quando c'è a fare che tipo il gas, io impazzisco. Non lo volevo prendere, è stato troppo male. È enorme, io l'ho avuto enorme. È enorme. Era molto bello. Io mi avrei voluto far fare un mobile per incassarlo. È il mio perché non ti piace già. Papà, certo non mi piace, ma è molto bello quello che ha fatto. È bello, e poi è completo. Sì, sì. Come hai fatto tu? Cosa mi hai detto? Lui mica c'è quella quell'altro. Ho detto già, prendilo, ho fatto così. Adesso vediamo con Claudio. Secondo me la situazione, dico Claudio, ordinalo. Pugli, io soldi. Sì, ma cosa c'è a casa? No, è stato le base, già. Non è voglia, uno come tipo il tuo, come quello che c'è tu adesso. Che di ex te vai di là, capito, mi hai, te vai di là e fai di ex, sì. In maniera laterale, chi su chi è, a fare qualche chiamata, non è che da fare di ex, poi vai, se trovo qualche italiano, uno su d'Italia, attento amico, se copi qua, cambio. Magari l'avrei anche preso, ma non ne ho, non ho bisogno in casa già, capito? Troppo. Roger, ma è una malattia quella. lo piazzo lì alla necessità l'uso. Roger, e così bisogna fare. Ciao, ti prendi. Claudio, no, io qua, c'è da quell'altro, c'è da quello, c'è da quell'altro. Avanti, fatevi sotto, fatevi sentire. Grazie. Avanti. Sono entrato, Roberto Quadrato. Ciao, Quadrato. Vabbè, stava dicendo di me poco fa, dice Franco, ha lasciato qualche cosa, ha detto qualcosa. No, Franco ha detto che sabato c'è la cena qui. Censura. Io non ho sentito nulla, Quadrato. Perché tu non ti hai lavato le ore in chiesa. Come senti Gianni? No, Gianni non si sente, vabbè. Mi dispiace, però sembra che non si sente. Io qui ti sento bene, bene, bene, bene. Più basso, cosa mi senti? Più basso è normale? No, io ti sento bene. Una radio semplice, pulita, niente. Santiago, come arrivo? Come insegnare? Scusate, un attimo di bianco, vado a fare il mio caffè. Capo, buona sapena. Fai un passaggio che guardo la ricetta. 1, 2, 3, prova Roberto Quadrato. Santiago 9. Radio ci diciamo 4, là, non è quella radio amplificata, bella. È un microfono normale, semplice, semplice. Capo, e Gianni non mi ascolti? Gianni lo ascolto più forte. Però Gianni è molto più vicino a me. No, no, ho detto che Gianni lo ascolta. Come mai non mi ascolta? Non lo so, forse non si è lavato le orecchie, oppure è una zona negativa nei tuoi confronti. Aspetta, ci siamo sempre parlati, ma non è in casa sua perché Gianni? Cappa. Ci siamo parlati in fila stamattina. Non credo che stamattina ci abbia parlato con Gianni. No, era in macchina lui, ci siamo sentiti in macchina stamani. E ieri sera ci siamo sentiti comunque. Ma in macchina è tutta un'altra Cuba, Gianni. Vabbè, in macchina è tutta un'altra Cuba, non è come quello di casa, dai. Non credo che abbia parlato da lui da casa, perché se no la gente ci avrebbe risposto. Ma sta parlando Gianni doppio rumbo. Cappa, Gianni doppio rumbo, Gianni doppio rumbo. Vedi se senti a Roberto Quadrato. Lo sento anche bene adesso. Avevo quasi chiuso, Roberto, scusami, ma siccome l'ho dato a aggiustare questo apparato qua e quindi sicuramente facendo le prove ha toccato lo scotch e sentivo solo quelli forti. Ma infatti mi stavo preoccupando, sai che mi ha rotto il baracchino. No, io avevo uno scotch che era chiuso, non mi racconto. Comunque arrivo normale, come fai arrivo già? Più forte di prima. Comunque mi stavate dicendo che Franco ha ordinato l'antenna. No, sono io. 9:20 stai arrivando adesso. Io da quanto arrivavo per te? 9:05. Aspetta, la radio come la vedi? Come la senti anche? Bene, bene, ma che cosa stai usando? No, quello vecchio, quello razzato, quello vecchio. Infatti mi cerco un microfono adesso. Se qui ci sono, c'è una bella occasione. Un bel apparato con un microfono amplificato a tavolo, tutto quanto completo. Non mi ricordo quanto sia. Lo stavo guardando anche Claudio poco fa, mi ha detto che è un bel affare. Io ho visto uno, 50 euro, però ci manca la cosa fatto di giorno. Adesso non mi ricordo che apparato. Mi sembra un presidente, ma è stato una cosa del può essere. Ascolta, ma come stai arrivando come segnavo io? No, no, 9:10. Più forte o più basso di prima? Non sono mai andato di solito, dai, non è che ho dato differenze. E io non credo, non credo. Mario, più o meno uguali, non lo so, esattamente, però fai una prova di nuovo, Mario. E non credo, non credo, non passo. Prova tu, Gianni. 1, 2, 3, prova. No, siete uguali, dai, uguali come segnale. Ah ah. Ehi, già, io non sono ai tuoi livelli, no, Magari essere quelli lì, ma tranquillo, quello che c'è scritto nel corso della stazione, e però non va, ci sono dei problemi sicuramente. No, no, negativo, non è possibile, dimmi il cacigno. Non so cosa poco fa, NAT. NAT, aspetta. Io non l'ascolto, e mo vi saluto perché mi sto addormentando. Buonanotte ragazzi, tutte le prossime, ciao! Ciao Luca, alle prossime, buonanotte. Ciao Luca, tutte le prossime, va. Buon QRT e buon tutto. Aspetta un attimino, ma ciao Luca, salutone e buonanotte. Vabbè, riprende qui, ciao. Dai, ne vai. E un attimo che avessi qui chiavi da Marco. Qui saluti. Natale, dimmi il numero. 2005 65 24 20 32 57 6. E allora stai sbagliando qualcosa, non è possibile. Stai sbagliando qualcosa tu, faccio qualche problema lì, ma è giusto. Niente. Zero nat. Come? Nat, in minuscolo. Minuscolo e maiuscolo, se no glielo rimettono nel corso della stazione. No, no, no, aspetta un attimino che faccio un cambio, devo riprovare il maiuscolo. Vediamo un po'. No, è uguale, siamo, aspetta che cambi il nome. No, è uguale, che sia maiuscolo, che sia maiuscolo è uguale. Che funziona? Certo che mi funziona. Se non funziona soltanto a me, funziona anche ad altri. Vabbè, ma c'è qualche file corrotto. A me mi esce la scritta che ci sono tre errori. Ah, allora ci dice qualche altro problema. Comunque, lasciatelo segnato quel numero. Sì, già è qua il numero, non c'è problema. Roger, dipendi Mario. Non vi dico sì. Al limite lo disinstalliamo, però non ho la coppia io, capito, di quello lì. Vabbè, facciami la penna, te la metto dentro la penna tua. L'installazione di quel programma. Perché io, quando schiaccio la GVPE, dovrebbe partire tutto, invece no. Perché se non è chiusa? Oh, no, è il coso del pacco di benzine, però non parte il programma. Quando vado a farlo partire nell'icona di Uviu, non parte, però ti dice che ci sono questi errori qua. Perché la registrazione l'ha presa, solo che non parte lui. Ah, ho capito, forse un problema di settaggio. Ma per registrare la tariffa? Di settaggio? In che senso? Perché Uviu è dovuto partire tranquillo, ho capito, una volta che parte la GVPE dovevo partire tranquillo, errore non te ne devo dare, evidentemente c'è qualcosa che manca. Infatti, io che cosa manca lì? Di primi mai. Cappa, se no quello lì è che la gente si muore a fare i denti di primi gioco. Quando mai uno non lascia un attimo di bianco se c'è qualcuno che vuole entrare, ok? Sembriamo dei bambini che schiaccia prima. Anda bene là, riprendi già. Ottimo, non ci penso, ma purtroppo sono cose che bisogna lottare, questi attimi di bianco. A volte anche io per primo faccio questo errore, ma con il caso è bello fare come fanno gli amatori che prima di rispondere lasciano il bianco. Ma io l'ho lasciato il bianco, se voi non ve ne siete accorti vuol dire che proprio non è capito un cavolo. Franco, lasciatelo io il bianco, prima di riprendere. Ho visto che non ha ripreso mai e allora adesso deve essere che non c'è. Se voi non avete un saggio, non è colpa mia. No, no, è colpa mia. Dai, là, fuggitine, non è successo nulla. Intanto, ma hai ragione, cosa vuoi che ti dica? Se io non rispondo... rispondo subito, vuol dire che c'è sempre un qualcosa. Se uno vuole parlare, non è detto che ci debba parlare sopra, anche allora io chiamo che è più forse, e io chiamo donna come essere bicinese, pure in lineare, pure in chiesa, pure in chiesa. Cioè non serve a niente. Se io aspetto qualche secondo, ossia che c'è qualcuno che vuole entrare, e per essere sicuro di non parlare sopra nessuno, e tu dici non vi gioco, boh, mai visto che non vi gioco, non mai visto. E allora? E così Natale frega, se comunque non è successo nulla. Mario, io confermo, non c'è, perché ti ho visto sopra il tetto col binocolo. Sani, tu caglia di muso, anche se no mi costringi a agire male. Facciamo da bravi, perché sennò se mi incazzo, questo è un casino di cui manco mi immaginetti. Perché qua c'è gente che ha ascoltato quello che ho detto. Capito? E fatti di cazzo in dura voi già tanto. Ah, vabbè, adesso si sta parlando male. Ascolta, falla bravo, già lo sai, non mi rompi le balle a me. A te quando dico una cosa sono così duro di chi sono così zendi. Matteo, non si è cercato nessuno, Matteo. Io sto parlando in generale. E poi se hai ascoltato bene, apri lo dici a me, che io ho detto, uno può anche non rendersene conto, figurati se si è cercato a te. Manco se l'anticamera me l'hai fatta cercare. E allora cerca di dire a prendere una ringa. Ti hai detto a queste persone manco degne di risposta sono. E dopo quello che ha detto la moglie di Franco ti stavo ascoltando io. Con Cristo mai. Sai che la ringa, il diritto la freno, quando lo sai cosa lì, sai di punto che è meglio, che quando apri bocca fai danno. Allora me ne hai fatto proprio dimmi. Vabbè, non c'è bisogno di altre altre adesso là. Comportare in modo civile, non come fanno come sono parlando. E adesso, detto questo, qualche QRT è veramente in governo stava, c'è altre cose da fare di meglio che fare qua. Cosa c'è? Cazzo non avete trovato il computer? Farino. Roba TV. Cazzo, c'è un altro disco. Ah, sì, che mi sono scommesso, porca miseria. Hai già trovato il disco. Ti stavano alterando per una fesseria, non è successo niente. Se hai visto delle luci e delle edifici, secondo me non va bene così. Roberto, impara la radio a ascoltare quando uno ha degli scambi di opinioni, non è, sono persone grandi, ognuno si arrangia da sé. Ma dispiace, dico, stai cercando di rifare, di parlare, di dialogare per un'incomprensione, per chiarirsi queste cose non va bene. Lo so, abito ti possono succedere queste cose, purtroppo la radio è fatta anche di questo. Gianni è grande vaccinato, sa rispondere, quindi non è che io sto ascoltando, sono zitto, non mi metto in mezzo più con nessuno, non so manco di guardare un trono perché se ce l'avete stavo spegnendo il computer. Riprendi già. Fai cosa riprendo qua, quando vieni del bar, facciamo perdere. Non fammi a dire una cosa qua che subito si apre la gente, hai capito? Vabbè, non ho problema. Avanti, vai, che riprendo. Ma a me mi dà fastidio che si investisce per queste cose, che si parla male. Per tanti motivi, perché ci possono essere bambini, ci possono essere donne, e queste cose non vanno bene. Io ho fatto solamente un'osservazione e basta, perché è giusto che la ricordassi, ma non per ricordarla a lui personalmente, per ricordarla un pochettino a tutti quanti, perché non è giusto che io se devo breccare sopra gli altri. Perché non è una cosa bella, quando uno lascia qualche secondo di bianco non succede nulla, non per questo deve uno entrare e dire non c'è, riprendo io. Se io ho lasciato un attimo di bianco è proprio per evitare che succedano queste cose, poi ognuno è grande vaccinato decide scarse, tutto lì. Le prende Claudio. Ma io me l'ho detto già l'altro giorno, facciamo una brava, io l'ho detto, uno lo può prendere diversamente, quindi se dobbiamo giocare saremo volanti, lo so perché sono il primo, faccio più casino di voi. Però se poi qualcuno se la prende a male, chiaramente si arriva e allora non con me. Non ho sentito, sto rispondendo a quello che si ottumano, non ho sentito perché sto spegnendo il computer e sono andato a prendere una sigaretta. Quindi non ho sentito, sento solo le voci, quindi non so neanche cosa è successo. No, non è questione di scherzo o di non scherzo. È che ormai gli avete tu di lasciare un po' di bianco tra un passaggio e l'altro. E si era tagliato lì, comunque. Ma la verità è già che il bianco comunque, perlomeno, io l'ho rilanciato a Mario, ma giustamente stavo facendo cosa, non ho risposto subito. Io non è che sono stato lì a aspettare la risposta di Mario, lui non ha risposto e lui è rientrato, capito? Ma sono cose che succedono. E io vabbè, ma anche lui non dipende, se io stavo facendo un discorso in generale, però non è che io stavo cercando di risolvere. Io ho detto così quando poi lui ha risposto male, è normale che io non si così gira e risponde male. Ma siamo presi, non c'è problema. Roger, riprendiamo a far girare la cosa. Quindi Mario. Vabbè, comunque io non so manco che cosa dire, tutto lì, no? Io se tu guardi non rispondo, parla pure al microfono, non rispondo mai, subito, mollata la parola, ripeti, boom, subito, anche se è importante, o niente, no, io aspetto sempre qualche secondo, poi c'è quello che crede che non c'è, c'è quello che... Io se mi assento lo dico, mi sono assentato, punto. Ma io ero qui, stavo aspettando se c'era qualcuno. Siccome molte volte è capitato di rilanciare me e per dire... riprendo io perché devo salutare, mi bomba. Faccio così, normalmente, perché... Aspetto un attimino. Mi bomba. C'è quello che entra... o perché deve salutare, o perché deve chiamare, una cosa qua che non è per pregare, e niente, tutto lì, non è che è successo niente di grave, infatti l'ho detto, non è successo nulla, tutto lì, vai Claudio. Sì, ma non è che sono il bombardo, non è Mario. Perché non mi sono rimasto di dire una persona che conosco 30 anni e sempre mi sono comportato bene nei tuoi confronti, quello che tu hai detto nei miei confronti. Capito, mia? Solo questo ti voglio dire. Vabbè, ma mi fate partecipare anche a me, io sono entrato così, bruscamente, non so neanche cosa è successo. Yeah. sono, boh, non va bene, non va bene. Bisogna partecipare. Aspetta un attimino, caro, cosa dice Novaio? Ma hai detto, bisogna partecipare. Ho detto che non è importante vincere, bisogna partecipare. Se no se ne andiamo tutti attivati, non se ne valida più. Lui si è florelle con internet. Questo non lo voglio. il virus. No, no, no. Sì, va bene. Io non sto riuscendo, come mai la fatica? Perché servo il macchinino chiuso. Allora, dipendi Mario. Va bene. Ecco, però almeno 1.800, quello che ho pigliato a mio figlio. adesso no, il telefono ce l'ho già perché l'ho comprato da poco e c'ha il Motorola. E niente, c'ha il tabletto, c'ha il dischetto, c'è tutto quanto. Ci vuole solamente l'abbonamento della Vodafone, la carta. Pensavo che era qualcosa in più, invece se mi sta dicendo che fino a 100 euro già ce la faccio, non è quello lì che mi mette a culo a terra, no? È il meccanico che mi ha imitato. Ehi, vabbè, ragazzi, la faccio. Ciao, faccio. E questa è la mia abitudine. Di quello che è successo, perché tantissimo come persona, che veramente reputavo molto, ma molto in gamba, forse senza offesa a nessuno, il migliore di tutti, ma comunque si chiarirà più avanti di questo. Per il momento io rimango nelle mie e non cerco nessuno e non voglio essere cercato da nessuno. Se Natalino si è sentito toccato, questo io non lo so per che cosa è la cosa, quindi non voglio mettere lingua, però io sono più impulsivo di lui, quindi non è che posso dire niente, Mario. Va bene, però è meglio evitare in questo periodo, perché siamo un po' tutti agitati, quindi se si riesce a evitare è meglio Natalino. No, io ho evitato finché ho potuto, ma tra un po' non mi avrete più tra i piedi, no, c'è problema, là. Là non ci entrerò più perché intanto non c'è problema, capito, ho altro di meglio da fare, capito. Sì, vabbè, Antonio, ci sono amici e non dico nemici perché Gianni non lo reputo un nemico né nei tuoi confronti né nei confronti nessuno. Si possono avere delle incomprensioni e quindi ciccia. Perciò dico, si può chiarire e basta, non è che, ti ripeto, anch'io ho avuto dei momenti particolari, non ho chiarito perché non mi interessa in questo momento chiarire. Quando sarà opportuno chiarire vuol dire anch'io a qualcuno dovrò dire due parole, ma per il momento, ripeto, preferisco starmene tranquillo e sereno. Va bene, avanti Franco, vedi, non vedi? Non lo vedi? Sì, vedo che il mio apparecchio sta andando e sono contento. Niente, no, io per questa questione non posso iscrivermi, in quanto non so le cose, quindi è inutile stare lì a parlare. Niente, non so cosa dire, adesso sto controllando della roba io qua, e niente, sono pronto a decidere, riprendi Mario. Un po' di televisione, va. Va. dopo quando vuoi arrabbiato gli fa la canzone. Che sentiamo? Non guardare i filmini pornografici, che poi ti tocca farti qualche cosa. Vai da bravo, farai il sussidio. Vai, Torre. Chi mi cerca mi trova, ma va già a far vero però, ah non sto confondendo, non va bene, ciao a tutti. Come poverino, però ragazzi non ti ha cercato nessuno. Ma quando dire che non c'è la parola, senti che mi ha dato un segnale con questa tipa che c'è. Ricordo, fammi vedere, parti in parcheggio. Coordinate, cioè so che cosa sono, So che cosa sono, però non capisco voi, state tutto combinando con quel computer. E niente. Guarda, l'unica coordinata che sto dando io adesso è un tipo con il capo. Non tocca le belle in terra. Roger, lui è 30, quindi sono dimezzate, capito? Quindi gestisci te le bene. Vabbè, lui ci darà così, dai, tanto per vedere adesso il sistema, l'ho già visto qual è, quindi sono entrato un po' da tutte le parti, mi ho fatto un giretto lì, visto anche con mia figlia, abbigliamento, sono andato un po' da tutte le parti, ma non c'è problema. Comunque quando viene non è che faccio vedere, perché è possibile che non riesco ad andare più di 13 pagine, mi pare strano a me. No, vuol dire che nella sezione dove ci sei tu, adesso io mi sono dimenticato di guardare a voi, comunque domani mattina controllo a vedere quante pagine sono in quel in quella pagina di dove c'è entrato tu, capito? Perché può darsi che le 26 pagine o le 23 pagine dove, perché a volte che le metto, capito? Dipende da quanta roba c'è in asta, capito? Ci sentiamo domani, dai.